Noi facciamo questo numero che io ho avuto attraverso le mie fonti private, le fonti privatissime le di fonti Crucia. della zanzara. Non è stata una grande ricerca, devo dire. Questo numero perché sono curioso di capire chi risponde. E se è vero che risponde. Se è vero che risponde qualcuno, se è poi il numero giusto, perché qualcuno può avermi anche fatto uno scherzo. L'hanno scritto tutti i giornali. Bossi ha dato questo numero di telefono, noi lo abbiamo, vediamo se è vero. Così almeno a lei risponde sicuro, Bossi. Poi per carità, abbassiamo subito. Non vogliamo... Magari lo salutiamo così al volo. Rimanga lì, Espero. Ecco, vediamo il telefono. Il telefono di Bossi. Secondo squillo. Presunto telefono di Bossi. Secondo squillo. Telefono di Bossi. Risponde lei poi, Speroni. Terzo squillo. Non risponde nessuno, in realtà. Quarto. Ma non esiste sto numero. Ma no. Speroni. Tanto esiste di sicuro. Ecco. Speroni, parli. Bossi? Chi è che parla? Speroni, a dire il vero, le posso passare Speroni? Le passiamo Speroni, Bossi. Eccolo, Speroni, c'è Bossi in linea. Pronto. Ciao Umberto, sono quelli della zanzara che sta facendo un ponte telefonico. Ho capito. Tutto qui. Come sta, salutatevi, come sta Bossi? Grande senatore. Dove si trova, senatore? In macchina. In macchina, ha visto che adesso... dove sta andando? Sono a Bergamo. Grande. Che c'è a Bergamo? Comizio ci sarà una cosa. Che c'è a Bergamo? Senatore? Pronto? Un attimo. Speroni, risponde. Cellulare di Bossi, mi raccomando, appena sente la voce di Bossi. Secondo squillo. Cellulare vero di Umberto Bossi, Terzo squillo. Tanto non rispondermi. Pronto? Sì, ciao Umberto. Come stai? Chi sei? Speroni, da Bruxelles. Ciao, da voi. No, volevo sapere come stavi. Sto bene. Tutto qua, io sto bene. Fatti vedere domani. Vabbè, magari ci sentiamo. Ciao, buona serata.